Meno male che abbiamo un'allerta meteo, no? Perché cominciavo a preoccuparmi. Comunque, ci teniamo in frequenza con Radio Città Fujiko e la prima colazione in diretta, il Breakfast Club, dalla sigla alle 7:46. Avrete intuito che parte subito la rubrica in scena del venerdì, anche se un po' atipica. Restiamo legati al lavoro per quanto riguarda Politico Poetico alla seconda edizione con la compagnia Teatro dell'Argine, ITC Teatro, ed è un lavoro che mette insieme, oltre che iniziative divulgative vicino ai più giovani, una comunicazione e un coinvolgimento con la città e con l'attualità assolutamente importante. Riparte Politico Poetico, è il progetto di teatro e cittadinanza attiva ed è rivolto a tutte le scuole secondarie di secondo grado di Bologna. Ai miei tempi c'era le elementari, le medie, le superiori, adesso ci spiegherà Andrea Paolucci della compagnia Teatro dell'Argine, che in collaborazione con Fondazione Innovazione Urbana Rusconi Ghigi ed è cofinanziato dall'Unione Europea, fondi strutturali ed investimenti europei, è un programma nazionale Città Metropolitana e Città Medie Sud 2021-2027. Sarà un lavoro che porterà ragazzi e ragazze a prendere parte a diverse tappe del progetto insieme a Teatro dell'Argine. Di che si tratta? Ne abbiamo parlato con Andrea Paolucci poco prima dell'inizio di conferenza stampa. Allora, con questa anticipazione si apre la rubrica in scena e il progetto Politico Poetico seconda edizione. Siamo arrivati alla seconda edizione di questo progetto, per cui vuol dire che si cresce. Si cresce, si rilancia e si aggiusta il tiro e si dà anche la possibilità a chi non ha avuto, come dire, l'opportunità di partecipare alla prima occasione di avere una richiamo a settembre con cui può recuperare. Ma in questo caso non è certamente un rimandato, ma è una crescita ulteriore. Spieghiamo un po' il progetto anche. Ma è un progetto che nasce tra la cittadinanza attiva e il teatro, tra la voglia di protagonismo che pensiamo debbano avere le nuove generazioni che hanno e la voglia di prendersi cura della propria città, magari appunto mettendoci in prima persona noi, rimboccandoci le maniche. E quindi abbiamo già nella prima edizione, e rilanceremo nella seconda, e ti posso già dire che ce ne sarà una terza, abbiamo chiesto e chiederemo ai ragazzi e alle ragazze delle scuole superiori, diciamo gli istituti di secondo grado, come si dice adesso, comunque le scuole superiori di Bologna, di immaginare ognuno per sé, quindi in un lavoro anche proprio di protagonismo individuale, non sempre il gruppo classe, piccoli, grandi progetti per migliorare la propria comunità, la propria città, la propria scuola, ma il proprio condominio. A noi di questi ragazzi e queste ragazze daremo la possibilità di avere 2-3 minuti di vero e proprio, perché no, monologo, che abbia come centro un loro progetto, che può andare dal sociale, dall'educativo, può essere come mettere i pannelli solari sopra la propria scuola, e mille di queste idee che già nella prima edizione sono state veramente sorprendenti per profondità e visione di come i ragazzi vedono la città. Quali sono le principali, diciamo così, iniziative o suggerimenti? Diciamo che noi inizieremo entrando nelle scuole a partire dal nuovo anno scolastico, dando ai ragazzi e alle ragazze che vorranno partecipare a questo progetto una serie di raccomandazioni di parole chiave che sono nate quest'anno proprio da un focus group fatto da loro coetanei. Quindi abbiamo chiesto a dei ragazzi e delle ragazze tra i 14 e i 19 anni di dirci quali erano i temi secondo loro più interessanti su cui far lavorare l'anno prossimo i loro colleghi. E sono venute fuori parole come fragilità, come rapporto con gli adulti, come visioni, orizzonti, cioè qualcosa che dà il senso di una generazione che si sente in crescita, che si sente in un momento di transizione, ma nello stesso tempo è pronta a prendersi a carico temi come i diritti, come l'ambiente. Li vediamo spesso, no, impegnati già in circoli e in attività legati ai Fridays for Future, piuttosto che ai club di Libera. Insomma, sono ragazzi impegnati. Ecco, Politico Poetico vuole dare loro la possibilità di una vetrina con cui parlare all'intera città, istituzioni e cittadini. Che merita, oltre che l'attenzione, anche perché noi complimenti, perché il dialogo con chi è impegnato e chi vuole impegnarsi, si dice, no, sono disinteressati. Ho letto in apertura il messaggio che è arrivato: se si impegnano prendono manganellate, se no vengano definiti menefreghisti. Beh, purtroppo è così, mentre invece io darei più attenzione a quello che è un aspetto che porta un'informazione libera, una divulgazione di contenuti in maniera trasversale, una collaborazione intergenerazionale che giustamente porta a essere protagoniste le nuove generazioni. Per portarle a essere protagoniste, portarle anche ad avere espressione che dà una proposta, ecco, quello è fondamentale per quanto riguarda l'idea di Politico Poetico per ITC Teatro, per la compagnia Teatro dell'Argine. Direzione artistica Andrea Paolucci, Micaela Casalboni, saluto anche Andrea Bonazzi, grazie per la disponibilità. Seguiremo ovviamente tutto ciò perché il dialogo è fondamentale e molte volte abbiamo nella comunicazione una grande difficoltà a livello intergenerazionale, ma perché i mezzi di comunicazione cambiano, perché i mezzi di comunicazione stanno vivendo, e non devo certo dirlo io, un momento di velocità assolutamente molto molto molto incisiva e molto forte, e riuscire a mantenere un dialogo che sia propositivo è un aspetto indispensabile. Con politico poetico tutto ciò è anche un'attenzione per, non è una richiesta, ma semplicemente uno sguardo in avanti grazie a quella che è la nuova generazione e i giovani, e la collaborazione tra tutte le età e tutti i tempi, se vogliamo usare un'espressione a me molto cara. In questa seconda parte conclusiva intervista con Andrea Paolucci si parlerà proprio di questo. Alcune cose sono abbinate, cioè la sensazione è quella, stiamo muovendo in maniera molto veloce nel bene e nel male, soprattutto nelle difficoltà in certi casi, e c'è un movimento anche di cambiamento all'interno di queste proposte, ci sono insomma qualcosa che va oltre quello che abbiamo sentito o quello che viviamo anche noi. Diciamo che sono molto consapevoli di essere in un periodo storico che li pone di fronte a certe sfide in maniera del tutto nuova rispetto, per esempio, ai loro genitori. Quando si parla di relazioni, sono i primi ad accorgersi che, come dire, i loro fratelli maggiori in gita scolastica sul pullman cantavano tutti insieme le canzoni di Battisti e oggi sono invece magari tutti chini sul cellulare e non parlano. Sono consci del fatto di come le nuove tecnologie possono essere uno strumento enorme per il lavoro, per lo studio, ma anche un rischio enorme. Quindi non solo noi vecchietti, noi boomer li vediamo e diciamo mamma mia, ai nostri tempi, e vedi che va in fretta allora. Loro hanno questa percezione forse di perdersi qualcosa e devono capire come fare a stare nel loro tempo, quindi a usarle queste magari, no, cambiamenti, queste nuove tecnologie, e nello stesso tempo però recuperare quei valori che loro per primo ritengono fondamentali: le relazioni umane, l'ascolto, l'empatia, la voglia di conoscere e di aprirsi al mondo. Collaborazioni. Le nostre collaborazioni in questo progetto sono qualcosa di più di collaborazione, sono vere e proprie partnership. In principio ovviamente il Comune di Bologna, che ha voluto rifinanziare con fondi PON questo progetto che è molto articolato e complesso. Ci sarà una parte fatta con Fondazione per l'Innovazione Urbana, che è nostro partner dalla prima edizione, con loro anche l'università, che correrà una parte importante, e direi che una delle novità più interessanti di questo anno, di questa seconda edizione, è proprio la possibilità di creare un fondo, grazie a Fondazione per l'Innovazione Urbana, un fondo di 30.000 euro che viene messo a disposizione dei progetti che hanno bisogno di finanziamento. Quindi non sarà solo una bella lista, una bella agenda di buoni propositi, ma alcuni di questi progetti potranno essere addirittura finanziati, in un'ottica proprio di dare sempre più responsabilità a questi ragazzi. Grazie Andrea, buon lavoro. Grazie delle anticipazioni. Grazie a te e a voi. Grazie Andrea Paolucci, tornando in diretta per Compagnia Teatro dell'Argine, questa seconda edizione di Politico Poetico. Mi ha colpito molto nella conversazione il momento in cui abbiamo approfondito, hanno come l'impressione di perdersi qualcosa, appunto per questa fretta, per queste nuove modalità di comunicazione, ma loro hanno come la sensazione di perdersi qualcosa. Ha tradotto Andrea poi nelle conversazioni con chi ha esperienza si arriva a comprendere certe emozioni e certe sensazioni che si provano nel dialogo con i più giovani. Ha tradotto esattamente quello che capita quando ci troviamo in determinati momenti di dialogo, no? Certo, c'è questa grande praticità con la tecnologia, c'è questa capacità naturale peraltro, però come l'impressione di perdersi qualcosa. Beh, questo è un argomento assolutamente da approfondire in conversazione tra un aspetto intergenerazionale. Politico-poetico, seconda edizione, ovviamente seguiremo i percorsi con Compagnia Teatro dell'Argine, un po' di musica pubblicità, poi abbiamo già ospite coprotagonista della rubrica In Scena di oggi, venerdì 3 maggio 2024, Alessandro Tampieri, e quindi parleremo, vada sé, di teatro, no? Si alza al sipario sui 103.1. Restate in frequenza, a tra poco. We'll be right back.